e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah e un saluto alla signora Ambrosia, perché, ecco, alla nostra nuova amica. Un saluto anche ai nostri ascoltatori. Ieri abbiamo rotto il ghiaccio, abbiamo ripreso insieme il nostro ritmo e per fortuna gli argomenti non mancano. Anzi, però direi che se voi da casa avete delle notizie da segnalarci un po' alla Cuore Denari, dei dubbi, delle curiosità, volete suggerirci, insomma, mettervi a lavorare un po' con noi, siamo onorate e contenti. Però nel frattempo, Deborah, io avrei subito una curiosità. Sentiamola. Per i tuoi ospiti. Ah! Mi piacerebbe parlare del diritto alla disconnessione. Guarda, abbiamo proprio Gianfranco Giardina. Più tardi, il nostro esperto di tecnologia, ci parlerà di questa batteria del nuovo Samsung che scoppia in mano a chi telefona con questo nuovo mezzo. Ne parlerò con lui. Comunque, magari per quegli ascoltatori che non hanno sentito parlare di questa cosa che incuriosisce te, la ricordo io. C'è una legge varata dalla Francia secondo la quale dal 1 gennaio i lavoratori francesi potranno non rispondere quando riceveranno mail o sms fuori dall'ufficio. Quindi, se la connessione è un'opportunità, non può e non deve diventare una condanna, anche perché, Nicoletta, arrivano sempre nei momenti più sbagliati. Certo, quando ecco, chissà. Non appena metti in moto la macchina che sei uscita dall'ufficio, arrivano sempre quei 3 o 4 che ti devono assolutamente parlare in quel momento, giusto? Ma anche oltre, no, l'orario d'ufficio, anche quando sei lì che stai scolando la pasta, stai girando il sugo con il naso, eccetera, arriva la mail importante. Allora, siccome anche la legge italiana sul lavoro agile, di cui abbiamo parlato più volte nel nostro programma, parla esplicitamente di diritto alla disconnessione, magari tract, ecco già un altro tema pronto per una delle nostre prossime puntate. Comunque io immagino che non avesse problemi di connessione o di disconnessione, ma sicuramente avrà tenuto un po' anche lui la situazione sotto controllo per verificare l'andamento delle sue azioni. Questo simpatico vecchietto, Ronald Reed, un bidello di 92 anni che è mancato nei giorni scorsi e che grazie a investimenti oculati e a una vita molto parsimoniosa ha lasciato in eredità... Sai quanto? Sentiamo. 8 milioni di dollari. Ammette neanche un centesimo. No, lo zio d'America. Non è il nostro zio d'America. Lo zio d'America. Un'eredità preziosa non solo per il suo valore considerevole, ma anche naturalmente per la storia personale che sta dietro. Una vera formichina, ci viene da pensare, o chissà, forse anche il frutto di qualche scelta un po' temeraria. Dovremmo analizzarlo, questo portafoglio del signor Ronald, nel corso di una delle prossime puntate di Investire Informati. Perché no? Salutiamolo. Dai. Va. Allora, lo zio d'America magari non ce l'avete neanche voi, però Deborah... A chi ha lasciato peraltro questi soldi? Non ai parenti, no, ma alla lasciata alla biblioteca e all'ospedale della sua città. Nel Vermont, una città che ha un nome impronunciabile, quindi lasciamo stare. E voi a chi vorreste lasciare cosa? Di chi vi piacerebbe ricevere l'eredità? O ancora siete favorevoli al diritto di disconnessione di cui abbiamo anticipato in apertura, che per voi è sacrosanto? Voi intanto non disconnettetevi, ma restate con noi, altri argomenti ci attendono. Allora, voglio parlarvi di un libro fresco di stampa che ho avuto il piacere di leggere questo weekend. Uno di quei libri che, sono certa sarà capitato anche a voi, sembrano arrivare al momento giusto per soddisfare un nostro bisogno, una nostra richiesta magari ancora non completamente esplicitata, per indicarci un modo, una direzione. Si intitola Non aver paura di sognare, sottotitolo Decalogo per aspiranti scienziati. L'ha scritto un grande ricercatore tra i più citati al mondo, Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e docente di Humanitas University, che è in linea con noi. Professore, grazie. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. E grazie per questo bel libro. Per me è arrivato proprio a fagiolo, come si dice. Professore, a cocco di pippa, come dice Deborah. Mentre noi siamo in onda, in 38 atenei statali si stanno facendo gli esami di ammissione a medicina e odontoiatria. Sono oltre 60.000 gli aspiranti dottori che si cimenteranno nelle prove. Ogni anno, puntualmente, si torna a discutere se la formula quiz sia quella più indicata a selezionare questo bel vivaio, no? La futura classe media. Dica, lei che ne pensa, professore? Ma io penso che i quiz siano un sistema imperfetto ma perfettibile, e penso che sia l'unico sistema utilizzabile per fare una selezione su una scala così ampia come è tutto il paese. Penso che il sistema dei quiz abbia sostanzialmente funzionato, Io ho avuto l'esperienza diretta dell'insegnamento prima e dopo l'introduzione dei quiz e della selezione, e la qualità dell'insegnamento, il rapporto con gli studenti è migliorato. Quindi si può fare per migliorare il sistema di selezione, ma questa è una buona base di partenza. E il libro naturalmente lo suggeriamo anche ai futuri dottori. In copertina si legge Decalogo per aspiranti scienziati, ma in realtà, professor Mantovani, il libro si rivolge non solo ai giovani e agli uomini di scienza, ma a tutti coloro che, diciamo, vogliono affrontare le sfide nel lavoro e nella vita con la voglia anche di realizzare i propri sogni, il coraggio di fare le cose per bene, con serietà e, vorrei dire, anche l'ambizione, perché no, di cambiare il mondo. Lei invita ad andare controcorrente, a non aver paura di sognare, a non mollare nella scienza come nella vita. Sì, io penso che bisogna avere il coraggio di osare. Io penso in questo momento ai giovani, appunto, che stanno facendo il test. Li invito a seguire la loro vocazione, a verificare la loro vocazione e avere l'ambizione di avere un impatto significativo sulla società e sul mondo, e nel nostro caso particolare sulla ricerca biomedica e sull'avanzamento delle conoscenze della cura al servizio dei pazienti. Professore, nel punto 4 del decalogo lei dice raccogli le sfide, e questo sicuramente comporta avere il coraggio di portare avanti le proprie idee anche quando sono diverse o fuori dagli schemi. Lei sottolinea nel suo libro, senza arroganza, anche con quell'onestà intellettuale di chi pensa di avere una buona idea, una buona intuizione, ma è anche ripreso nel decalogo anche con l'umiltà, no, di considerare le critiche degli altri. Bene, noi tutti non possiamo che rallegrarci, professor Mantovani, che lei l'abbia fatto, perché proprio seguendo una sua intuizione ha scoperto che alcune cellule del sistema immunitario, invece che aggredire il tumore, si comportano come poliziotti corrotti che, invece che combattere e arrestare il cancro, lo aiutano a crescere e a proliferare. Bene, questa scoperta ha sicuramente rappresentato una svolta importante e ha posto poi le premesse per nuove strategie terapeutiche complementari a quelle tradizionali, e quindi colpire non solo la cellula tumorale ma il suo ambiente circostante. E questa è la strada per arrivare a terapie sempre più personalizzate. Corretto, professor Mantovani? Penso di sì, penso che tutti adesso siamo d'accordo che l'immunologia costituisce la nuova frontiera della lotta contro il cancro. Come in ogni nuova frontiera ci sono molte sfide. La sfida prima è quella di verificare se e quanto le armi disponibili possono essere utilizzate assieme alle armi più tradizionali. Personalizzare le terapie, quindi individuare i pazienti che rispondono, sviluppare nuove strategie di intervento, da una parte togliendo i freni all'immunità e dall'altra fermando i poliziotti corrotti. Ecco, queste sono le sfide che abbiamo davanti e che avranno davanti almeno alcuni dei giovani che stanno facendo il test in questi giorni. Professore, in questi giorni i giornali hanno, l'abbiamo letti tutti, riportato storie dolorose di donne come Eleonora, morta di leucemia a 18 anni, o di Alessandria, mamma di due bambini, morta di cancro qualche giorno fa. Bene, entrambe hanno rifiutato di sottoporsi alla cura indicata dai rispettivi curanti, la chemioterapia, no? Allora, credo che casi come questo potrebbero essere evitati se, e qui torno, professor Mantovani, al decalogo del suo libro, i medici tornassero a imparare dai pazienti e soprattutto iniziare a considerarli l'inizio, il fine, il centro di tutto, e se i pazienti potessero avere con i medici una relazione, e quindi i medici a loro volta con i pazienti, e quindi i pazienti ascoltassero anche le indicazioni dei medici e a loro volta i medici ascoltassero le richieste dei pazienti, informandoli senza false aspettative, ma riuscissero a trasmettere dei messaggi chiari. Mi chiedo a un ricercatore impegnato come lei da anni a trovare soluzioni per vincere le malattie, che effetto fanno queste notizie? Queste notizie, come quelle che ci sono state in passato, pensiamo ai tempi della cura di Bella, genitori che hanno rifiutato la terapia che poteva essere curativa di leucemia. Ecco, queste notizie mi riempiono di dolore e di grande angoscia. E si aggiungono a, ad esempio, una notizia recente di pochi mesi fa, di circa 10 mesi fa, un bimbo di 18 mesi con leucemia linfatica acuta che aveva più del 90% di probabilità di guarire di leucemia, che è morto di morbillo perché è venuta a mancare l'immunità dei greci. Ecco, di fronte a queste notizie io sento un profondo dolore, una profonda angoscia, ma poi viene la domanda: cosa possiamo fare? Ecco, io quello che possiamo fare è impegnarci di più nella formazione dei medici, dei giovani medici, e impegnarci di più nell'adempiere al nostro dovere di informare il pubblico, di informare il pubblico degli avanzamenti, e questo è quello che lei sta facendo. Grazie professor Mantovani per essere stato con noi. Ricordo il titolo del libro, Non avere paura di sognare, decalogo per aspiranti scienziati. Buona giornata professor Mantovani. Buona giornata a lei e agli ascoltatori. Adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, e ritorniamo subito dopo insieme. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Cuore e denari. Ed eccoci di nuovo insieme con la consueta colonna sonora che, ormai lo sapete bene, ci introduce ai nostri momenti dedicati alla rassegna stampa, alle notizie più importanti rispettivamente di cuore e di denari. Partiamo naturalmente per l'aspetto finanziario dalla seduta di borsa. Stamattina la giornata è ripartita bene, abbiamo dei rialzi generalizzati fra i listini continentali, anche l'Asia è andata benino, Nikkei più 0,26%, andiamo all'Europa, Parigi più 0,17%, Francoforte più 0,20%, Londra negativa anche oggi, per la verità meno 0,19%, e Milano più 0,18%. Oggi vedremo che spunti darà Wall Street, visto che il mercato americano riparte dopo la chiusura di ieri per il Labor Day. I migliori titoli di Piazza Affari: Mediaset più 2, Yux Net-a-Porter più 1,64, Unipol più 1,57, Leonardo, Finmeccanica più 1,45. Teniamo sotto i riflettori ancora il settore bancario, sta pian pianino crescendo di nuovo anche oggi Monte dei Paschi più 0,17%, con tutte le ipotesi che si fanno sul futuro dell'istituto, che nei prossimi mesi dovrà lanciare un maxi aumento di capitale per rafforzare i propri requisiti patrimoniali messi sotto stress dall'imminente cessione dei quasi 10 miliardi di sofferenze nette già in programma. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto in negativo di circa mezzo punto percentuale abbiamo un bel gruppo di titoli: Luxottica, Telecom, Exor, Ferrari, Tenaris, CNH Industrial e Prysmian. Volevo parlare di lavoro ed occupazione, Nicoletta. Se in molti ambiti il passo è ancora a dir poco incerto, ne troviamo però alcuni con un segno nettamente positivo. Allora, anticipiamo anche che noi stiamo ipotizzando di mettere in cantiere un progetto dedicato al lavoro, perché Cuore e Denari ci tiene molto alle persone che non hanno queste opportunità in questo momento, per cui riandremo un po' a caccia di magari opportunità professionali per voi. Vedremo cosa potremo fare nei prossimi mesi. Intanto però l'estate 2016 ha visto per il turismo una crescita di oltre 64.000 occupati ad agosto rispetto allo stesso mese di un anno fa e 9.335 imprese in più, secondo le stime dell'osservatorio Confesercenti, mentre il commercio ha continuato un po' a soffrire. Il settore ha registrato la scomparsa di 5.054 negozi, a fronte però di un piccolo incremento dell'1,7% degli occupati. C'è comunque di fondo una tendenza positiva per il turismo che pare possa essere intenzionata, insomma, a continuare a settembre. Tra l'altro, perché mi ha incuriosito questa notizia, Nicoletta? Perché ti ricordi che ieri abbiamo fatto il decalogo dei disagi più diffusi fra i vacanzieri, cioè le motivazioni per cui sono stati magari scontenti della propria vacanza: il cibo, l'albergo, il bagno non tanto pulito, l'ombrellone che non andava bene, tutta una serie di cose. E subito ci hanno scritto un sacco in realtà di ristoratori, albergatori, e ci hanno detto: ma insomma, ma perché non dite anche quello che pensiamo noi dalla nostra parte? Fatevi avanti, quindi. Esatto, e quindi turisti qualche volta un po' troppo esagerati nelle pretese, anche qualche volta maleducati, non tanto puliti per come lasciano le camere, eccetera. Per cui un colpo al cerchio e un colpo alla botte, come si dice. Adesso invece parliamo di tecnologia, anche se la notizia di cui parliamo ha molto a che fare anche con i nostri denari, in particolar modo con i denari di chi ha comprato recentemente un Galaxy Note 7. Qualche giorno fa, infatti, le vendite del nuovo smartphone top di gamma, lanciato nelle ultime 2 settimane in molti paesi da una nota società Samsung, in molti paesi nel mondo, sono state sospese in via cautelare dopo la segnalazione di diversi casi, appunto, di smartphone esplosi. Cosa è successo? Chi è che ha in mano queste piccole bombette? Esatto, attenzione. Buongiorno a Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia D-Day, esperto di audio video, elettronica di consumo e soprattutto uno dei migliori amici di Radio 24. Gianfranco, buongiorno. Grazie mille, ciao e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Senti, ma hai sentito la notizia con cui siamo partite questa mattina di questa legge francese che dà il diritto alle persone di disconnettersi da internet da una certa ora del pomeriggio in avanti? Quindi no, smettila di scriverci ad ogni ora del giorno o della notte a me, Nicoletta, perché noi non vogliamo più risponderti. Basta. Va bene. Affronterai questo argomento per D-Day? È un tema interessante anche per voi? Sì, assolutamente un tema interessante, anche se credo che, ahimè, se l'internet credo sia la più grande innovazione dell'ultimo secolo di sicuro, e è una cosa che ha cambiato e cambierà tutti gli stili di vita, non si sfugge, secondo me non si sfugge, non è così so. Che... Però guarda, ti posso dire che ieri sera, mentre tentavo di andare in palestra a mettermi le scarpe da tennis e tutto l'abbigliamento necessario per fare i miei corsi, vedere sto telefono che lampeggia che e alle 7 c'hai quello che deve assolutamente dirti una cosa indispensabile, magari per, che ne so, un lavoro che devi fare fra 20 giorni... Io direi che ieri sera avevo tutta la voglia di invocare appunto questo diritto a disconnettermi. È vero, ma smartphone e internet non annullano il libero arbitrio. Spegnere e non rispondere. Gianfranco, allora ci puoi spiegare in che cosa consiste questo difetto del Galaxy numero 7? Si è capito qual è la causa? È un problema serio, un pericolo reale? In realtà basta vedere le foto che circolano, che non è che siano tanto promettenti, insomma. No, teoricamente è un pericolo reale, e aggiungo teoricamente, perché le batterie al litio, che sono quelle che abbiamo in tutti gli smartphone che abbiamo in tasca, sono batterie che sono molto avanzate dal punto di vista tecnologico, ma hanno all'interno molta potenza che, se mal convogliata, può chiaramente portare a dei problemi di questo tipo. Ovviamente tutti i prodotti elettronici che consumo con la batteria sono ampiamente testati e hanno soprattutto dei microcontrollori, cioè dei processori che governano la batteria, cioè non bisogna pensare a una batteria come quella dell'auto che, come dire, ha delle connessioni elettriche e finisce lì. A monte delle connessioni elettriche c'è proprio un microchip che governa quanto si deve caricare la batteria, quanto si deve scaricare, proprio per evitare che si possano creare situazioni pericolose. Per esempio, a tutti forse sarà capitato di lasciare, dimenticare per un attimo, anche durante il viaggio, un cellulare, per esempio, davanti al parabrezza dell'auto al sole. Quando il telefono raggiunge una determinata temperatura si spegne da solo, cioè onde evitare qualsiasi problema anche alla batteria, semplicemente va in protezione e dice: raggiunta temperatura troppo alta, autospegnimento. Ecco, questo fa parte dei sistemi con i quali gli apparecchi si autoproteggono da questi problemi. Allora, evidentemente il prodotto Samsung in questione aveva qualche problema, non lo sappiamo ovviamente, o nella batteria stessa o nel controllore di questa batteria o addirittura nel sistema di carica. Le batterie diventano più capienti se le si carica a una tensione un pochino più alta. Se questa tensione però è un po' troppo alta, questo può dare qualche problema. Quindi è tutta un'ottimizzazione di quanto si spinge un po' più in là le prestazioni della batteria, ma la batteria deve saperle reggere. Il problema è che evidentemente una piccolissima quota parte, che parliamo di 35 case in tutto il mondo. Esatto, infatti volevo proprio andare ai numeri, ci mancano pochi secondi prima di chiudere, Gianfranco. In Italia erano già in circolazione questi smartphone? In Italia non erano tecnicamente in circolazione, perché la distribuzione doveva iniziare nei prossimi giorni. Samsung si è comportata molto correttamente, ha ritirato tutte le quantità nei negozi per fare tutti i controlli. Però case. I commercianti li avevano già, non ce li avevano. Qualche commerciante ce l'aveva già, piccolissime quantità sono arrivate sul mercato e sono state comunque, per quanto ne sappiamo noi, completamente ritirate. Quindi il pericolo concreto non c'è. Di certo c'è un danno d'immagine per Samsung in questa fase di mercato, più d'immagine direi che d'altro, rilevante, anche perché fra qualche giorno, anzi precisamente domani, viene presentato iPhone 7, quindi il principale concorrente che avrà, come dire, ne trarrà un indubbio vantaggio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Una monetina a te, una a te, una monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti, l'altra per sparire. È adorabile questa canzone di Daniele Silvestri, con la quale apriamo una nuova pagina di denari. Allora veniamo all'argomento di oggi. Sono sicura che ti piacerà, Nicoletta, ne abbiamo già parlato. Adesso siamo pronti ai nastri di partenza, anzi sono già stati tagliati venerdì scorso. Parliamo dei nastri di partenza che hanno consentito l'avvio ufficiale dell'operazione SIA, il sostegno per l'inclusione attiva, la misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un contributo alle famiglie in condizioni economiche disagiate. Naturalmente ci sono delle condizioni, dei requisiti stringenti per poter avere accesso a questo contributo, ma già da qualche giorno, esattamente da venerdì scorso, è possibile inoltrare la richiesta. L'aspetto importante di questa misura è che per godere del beneficio la famiglia del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, per cui abbiamo pensato di fare un riepilogo sulle modalità con cui va fatta la domanda, un riepilogo dei requisiti necessari per ottenere il sostegno e soprattutto cercheremo di capire cosa intende nel concreto il Ministero del Lavoro quando parla di attivazione sociale e lavorativa, che opportunità hanno queste famiglie in un contesto di mercato del lavoro che già non è facile. E poi sottolineo anche un'altra cosa e adesso ne chiederemo conto anche ai nostri ospiti. Mi stupiva un po' il modo con cui questo argomento è stato affrontato ieri da un giornale anche molto noto, il Secolo XIX, che parla di bonus sociale flop alla partenza, anzi un articolo pubblicato sabato per un'operazione che era partita il giorno prima e già loro sapevano che era un flop, per cui speriamo di poter combattere in realtà questa idea. In realtà forse il flop si riferisce di più al fatto che tutto questo progetto, che ha un'importanza sociale molto elevata, non sia stato accompagnato magari da una adeguata campagna di comunicazione e di informazione, per cui a questo problema, come dire, in qualche maniera rimediamo noi di Cuore e Denari, ma non solo, e lo facciamo con due ospiti. Intanto saluto e ringrazio di essere con noi il dottor Raffaele Tangorra, della direzione, direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro. Buongiorno. Buongiorno. Grazie appunto anche a lei per il suo lavoro, così come ringrazio Dino Giornetti, responsabile settore ISE per CAF, per il CAF appunto della CISL. Buongiorno Giornetti, anche a lei. Buongiorno a voi. E naturalmente microfono aperto agli ascoltatori che hanno delle domande su questa operazione. 800 24 00 24 è il numero verde per poter intervenire in diretta, però intanto Nicoletta, anche l'osservatorio potete, WhatsApp. Certo, scriverci al 349 238 6666. Allora, dottor Tangorra, volevo cominciare subito con lei sulle un riepilogo anche veloce delle risorse che sono disponibili per questa operazione, perché leggo dal Sole 24 Ore di questa mattina che c'è già in programma da parte del governo di ampliare la dote per il piano antipovertà. Quali sono le risorse disponibili per quest'anno? A quanto ammonteranno a partire dall'anno prossimo? E secondo lei c'è già un'idea quanto ulteriormente potrebbero aumentare? Sì, dunque allora, quest'anno abbiamo a disposizione 750 milioni. Il SIA, che è partito venerdì scorso, è in realtà una misura ponte. Ponte verso che cosa? Verso una misura strutturale che si chiamerà reddito di inclusione. In questo momento c'è un disegno di legge in discussione in Parlamento, è stato già approvato dalla Camera dei Deputati, verrà approvato entro l'autunno da parte del Senato sperabilmente, e quindi con l'attuazione poi nel 2017 avremo una misura strutturale, reddito di inclusione. Reddito di inclusione che è finanziato per 1 miliardo l'anno, quindi a partire dal 2017 questi 750 milioni diventano 1 miliardo. Ma in più questo disegno di legge delega in discussione in Parlamento prevede anche un riordino delle altre misure di povertà esistenti, in particolare la social card e l'ASDI, che è una misura sperimentale partita quest'anno, per cui abbiamo altri 450 milioni a disposizione e in più speriamo che la legge di stabilità riservi anche qualche sorpresa. Il ministro punta, l'ha già detto pubblicamente, per il prossimo anno a raddoppiare le risorse di quest'anno, quindi da 750 milioni passare a 1,5 miliardi. L'obiettivo, dottor Tangorra, anche in questo caso ci ritorna il Sole 24 Ore, è quello di garantire un sostegno al reddito ad 1 milione di poveri, di cui circa 500.000 minori. Sono queste le cifre della platea potenzialmente raggiungibile e quella che, come dire, poi concretamente voi pensate di raggiungere, corrisponde alla stessa cifra, ce la farete ad arrivare a questo 1 milione di famiglie in condizioni economiche disagiate? E queste sono 1 milione di persone, sì. 1 milione di persone che vivono in circa 200.000 nuclei familiari, tra 800.000 e 1 milione, direi più correttamente, nel senso è meglio dare delle forchette, perché noi quello che abbiamo a disposizione è una base dati riferita alle dichiarazioni ISEE del 2015, quindi sulla base di queste dichiarazioni abbiamo fatto delle proiezioni e le proiezioni danno, diciamo, come valore superiore quelli che ha appena detto lei, quindi contiamo di raggiungere circa 200.000 famiglie con almeno 400.000 minori e almeno 800.000 persone nel complesso che vivono in queste famiglie. Questo è l'obiettivo per il primo anno della misura. Tra l'altro, a proposito del titolo che non conoscevo e che ha citato lei prima in premessa, non c'è bisogno di affrettarsi agli sportelli, anzi dappertutto si stanno organizzando per dare appuntamenti alle famiglie, perché fino al 31 per avere il primo beneficio, che sarà erogato nel mese di novembre, c'è possibilità di fare domanda fino al 31 di ottobre, quindi è bene che prima di fare la domanda venga correttamente compilata, venga fatto, diciamo, un'accoglienza presso le strutture comunali, in maniera tale che si comprenda bene se si ha diritto, se non si ha diritto, che non si facciano domande senza un opportuno controllo precedente. Certo, allora la presentazione della domanda, andiamo subito alla fase operativa della richiesta del sostegno di inclusione attiva. Dino Giornetti, vengo a lei. Noi abbiamo interpellato i CAF, che in prospettiva potranno aiutare queste famiglie, queste persone ad elaborare le domande, a calcolare l'ISEE, ma ad essere precisi, appunto, l'interlocutore primo per queste famiglie è e sarà il comune, che forse già conosce le famiglie che hanno questo bisogno. Allora ci ricorda, lo faccio fare a lei, i requisiti necessari per poter avere accesso a questo sostegno di inclusione attiva. Giornetti. Sì, buongiorno. I requisiti sono diversi. Parliamo di famiglie con figli minorenni e o figli disabili e donne in stato di gravidanza che potranno presentare la domanda a 4 mesi dalla data presunta del parto. Valore economico di questi nuclei familiari per poter presentare la domanda è un valore ISEE inferiore o uguale a euro 3.000. La domanda deve essere presentata... Quindi una condizione di disagio economico molto forte, molto rilevante. Sì, non solo, poi ci saranno dei criteri ulteriori da verificare per aver diritto, per poter fruire della prestazione, però i nuclei con queste condizioni, quindi presenza di figli minorenni, disabile o donne in stato di gravidanza dopo il 5° mese di maternità, possono presentare la richiesta se hanno un ISEE inferiore agli euro 3.000. La domanda va presentata ai comuni. In molti comuni in Italia i CAF hanno trovato una collaborazione, quindi possono assistere chiaramente per avere l'ISEE. Si ricorda innanzitutto il requisito economico è fondamentale, quindi di presentare in prima istanza l'ISEE per verificarne il valore. E in alcuni casi la domanda potrà essere presentata anche ai CAF, dove c'è una collaborazione tra CAF e comuni. In ogni caso i comuni e i CAF possono dare massima assistenza a tutte le famiglie interessate per verificarne i requisiti. Certo. La domanda va presentata quindi come suggeriva il direttore, entro il 31 ottobre per aver diritto al bimestre successivo, e ogni bimestre viene fatto un controllo sulle domande accettate per verificarne la sussistenza dei requisiti. Allora, poi tra l'altro fra gli altri requisiti di natura economica c'è anche il fatto che non si deve beneficiare di altri trattamenti economici irrilevanti, non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati, devono essere assenti beni durevoli di valore tra le proprietà appunto di questa famiglia, ma l'aspetto più importante è questo, uno dei punti importanti sui quali mi voglio soffermare appunto proprio con il Ministero, con il dottor Tangor, è che per godere di questo beneficio economico, ricordiamo peraltro, 80 euro a persona giornetti per un massimo... Fino a 400 euro si va a nucleo familiare, dove si misura la numerosità del nucleo, quindi delle persone all'interno del nucleo, con una persona sono 80 euro mensili, fino ad arrivare a 400 euro mensili per nuclei composti da 5 o più persone. Denaro che non viene erogato in contanti, non viene accreditato su un conto corrente, ma viene accreditato su una carta come quella acquisti, come la carta acquisti, quindi sì. Una carta SIA si chiama, giusto? Si chiama carta SIA, è abilitata a tutti i circuiti Mastercard, quindi supermercati. È possibile pagare con la carta le bollette di luce e gas, quindi attraverso Poste, e viene caricata bimestralmente direttamente da Poste dopo la verifica dei comuni e dell'INPS sulla sussistenza dei requisiti. Certo. Allora, tra l'altro, proprio per i requisiti stringenti sulle condizioni economiche delle famiglie che ne avranno diritto, immaginando che magari queste famiglie non possano raggiungere le trasmissioni di Radio 24, magari fatevi voi portavoce se avete attorno a voi delle famiglie, delle persone che vivono in situazioni economiche di particolare disagio, è qua che il passaparola mi sembra fondamentale. Allora, dottor Tangorra, per godere di questo beneficio, il nucleo familiare del richiedente, questo è l'aspetto secondo me molto importante di questo pacchetto che poi ha l'obiettivo di arrivare ad introdurre il reddito di inclusione, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Allora, di che patto tra servizi e famiglie, perché di questo si parla anche sul sito del Ministero del Lavoro, stiamo parlando? Un patto che implica, dite voi, una reciproca assunzione di responsabilità ed impegni. Di che tipo di attività stiamo parlando, peraltro, dottor Tangorra? Dunque, l'obiettivo del governo è quello di realizzare una misura che non ha natura assistenzialistica, non vuole essere un mero sostegno economico, ma vuole andare a quelle che sono le radici del problema che si manifesta con una scarsa disponibilità di risorse economiche nella famiglia. Quindi l'obiettivo è quello attivare innanzitutto la rete territoriale dei servizi, quindi fondamentalmente una persona che si trova, un nucleo familiare che si trova in una condizione di povertà è tipicamente portatore di diversi problemi, banalmente l'assenza di lavoro. Ma possono essere diversi problemi, possono esserci problemi ad esempio nei bambini, nel modo in cui i bambini sono seguiti a scuola, nel modo in cui sono seguiti dal pediatra, cose di questo tipo, possono esserci problemi nelle caratteristiche degli adulti, adesso banalmente può esserci solo un'assenza di lavoro, ma possono esserci anche altri problemi di stili di vita, di dipendenze, cose di questo tipo. Per cui fondamentalmente quello che riteniamo è che l'amministrazione pubblica locale, la rete dei servizi locale, debba innanzitutto farsi carico del problema che questo nucleo familiare manifesta, quindi insieme al nucleo familiare, con la partecipazione attiva del nucleo familiare. Quindi abbiamo portato in conferenza unificata, e sono state accolte molto favorevolmente sia dalle regioni che dall'ANCI, delle linee guida per la predisposizione di questi progetti. Il momento principale è quello della valutazione, quindi c'è prima un pre-assessment in cui si valuta qual è la situazione di bisogno della famiglia. Adesso banalmente, se c'è una situazione di bisogno legato all'assenza di lavoro, allora si attiva il centro per l'impiego e il centro per l'impiego sarà responsabile di un patto di servizio a cui si condiziona poi successivamente l'erogazione della misura. In cosa può consistere questo patto di servizio? Può consistere in alcune attività di ricerca attiva di lavoro che si concordano insieme con il lavoratore, politiche attive che vengono offerte al lavoratore, ad esempio dei corsi di orientamento l'orientamento, il modo in cui ci si presenta a un colloquio, il modo in cui si prepara un curriculum, possono essere delle attività di formazione, possono essere dei tirocini veri e propri, con la finalità inclusiva e di reinserimento nel mondo del lavoro. Però comunque noi chiediamo fondamentalmente a chi è beneficiario di questa misura un comportamento da buon cittadino, niente di più. Quindi se i bambini vanno a scuola, i bambini devono essere seguiti a scuola, quindi c'è un'attenzione alla frequenza scolastica, c'è un'attenzione alle attività didattiche, se viene proposto un programma di educativa domiciliare si deve aderire a questo programma, se ovviamente la famiglia lo ritiene anche la cosa migliore per poter far fronte ai problemi che si presentano nel nucleo familiare. Però è un progetto a 360 gradi, non è solo lavoro, è anche scuola, è anche salute, è anche servizio sociale professionale. L'obiettivo è non solo aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà, ma soprattutto aiutarle a riconquistare, dite voi, gradualmente l'autonomia, ci aggiungo anche la dignità sociale. E poi da qui, dottor Tangorra, allora questo contributo durerà 12 mesi, dunque un anno, fino a quando non verrà stabilmente introdotto il reddito di inclusione. Poi queste famiglie che ricevono il sostegno, questo sostegno viene automaticamente convertito in reddito di inclusione. Come le monitorerete in questo anno? Ma dunque, il reddito di inclusione stabilirà le modalità, la durata in particolare del sussidio, quindi dal punto di vista di quelle che sono le esperienze oggi presenti in Italia, in particolare nelle province autonome di Trento e Bolzano, queste forme di aiuto alle famiglie tipicamente, perlomeno per quello che riguarda l'aiuto economico, non proseguono indefinitamente nel tempo, anche per dare i corretti incentivi alle famiglie verso l'autonomia, quindi tendenzialmente hanno anche delle pause, però questo sarà compito del reddito di inclusione, insomma del lavoro del Parlamento nel senso dell'indicazione dei principi al governo e poi del governo per quanto riguarda i decreti attuativi, quindi questa che abbiamo di fronte è una misura che si sospende dopo i 12 mesi. Quando interverrà il reddito di inclusione si stabiliranno le modalità con cui il sussidio verrà erogato nel corso del tempo. Una sorta di test questo, insomma, una prova sperimentale del reddito di inclusione, questo sostegno di inclusione. Oltre la sperimentazione, perché appunto si avvia a essere una misura strutturale e quindi le caratteristiche di quello che sarà il reddito di inclusione, le caratteristiche principali sono qui già ampiamente riprodotte. Quello che cambierà è sicuramente la platea, nel senso che potremo raggiungere un numero maggiore di beneficiari e alcune caratteristiche, ad esempio legate al beneficio economico, che qui è proporzionale, come diceva Giornetti, sono 80 euro per il numero di componenti nucleo familiare, alla Camera si chiede di far riferimento alla soglia scelta come indicativa della povertà per dimensionare il beneficio economico, così come la durata del beneficio, sono aspetti che saranno poi dopo successivamente definiti. Allora, noi stiamo andando verso la chiusura di questo approfondimento, ci ritorneremo nelle prossime settimane proprio per continuare ad aiutare chi è in ascolto a conoscere quanto meglio possibile appunto questa misura. C'è una richiesta di chiarimento da parte di Claudio da Roma, poi Pasquale da Milano che voleva intervenire dice potrebbe essere una buona idea questa iniziativa che comunque è ufficiale parte, ma l'ISEE di 3.000 euro è un po' troppo basso. Claudio da Roma, veloce, grazie, buongiorno intanto. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, complimenti per l'idea. Il problema è, mi chiedevo perché mettere un tetto a 400 euro sul discorso del nucleo familiare quando le famiglie con nuclei familiari più alte sono sicuramente di meno e hanno sicuramente più bisogno. Io, per mio concreto esempio, siamo 7 figli, cioè io ho 7 figli, quindi siamo 9 nel nucleo familiare e mi permetto di dire che 400 euro per 9 persone non è la stessa cosa che 400 euro per 5 persone, quindi mi domando perché bisogna mettere un tetto di questo tipo e non continuare con un'aliquota progressiva. Probabilmente è stata individuata perché forse è stata fatta una ripartizione tra risorse e nuclei familiari appunto potenzialmente destinatari di questo contributo. Dottor Tangorra, in un minuto se ce la fa. Allora, e di conseguenza si è stabilito un tetto. ISEE 3.000 euro, noi abbiamo in Italia nel 2015 oltre 530.000 famiglie che avevano un minore nel nucleo familiare e un ISE inferiore a 3.000 euro, quindi sembra bassa una cifra di 3.000, ma è un valore equivalente, può corrispondere anche a un reddito di 15-18.000 euro se nel nucleo familiare ci sono 4-5 componenti e si paga un affitto, per come è costruito l'ISE. 30 secondi per i 400 euro come valore massimale, lo dicevo prima, col reddito di inclusione ci sarà la possibilità di rivedere, per il momento abbiamo voluto una misura che rimanesse sotto comunque l'assegno sociale, che diciamo non è dimensionato sulle caratteristiche del nucleo familiare, però comunque è appena superiore ai 400 euro. Però ripeto, sono tutte modalità che potranno essere riviste correttamente. L'ascoltatore diceva una famiglia di 9 persone non è la stessa cosa che una famiglia di 4, quindi sono modalità che potranno essere riviste col reddito di inclusione. Dottor Tangorra, grazie per essere stato con noi, buon lavoro per questa operazione, per quest'anno impegnativo su questo fronte. Grazie anche a Dino Giornetti per essere stati con noi. Rapidamente vado a raccontare ai nostri ascoltatori la borsa per poi ritornare sui temi di faremo, cuore. Faremo conti anche noi, un altro davvero genere di conti, perché tocca parlare un po' anche di rimetterci in forma, magari l'ago della bilancia si è spostato un po' su, come sempre, no? Si dicono quanto ingrassano gli italiani durante le vacanze, ne parliamo, ma c'è anche chi come Deborah è tornata perfettamente in forma e chi invece è addirittura dimagrito. Quindi esagerato, posso dire che forse sono anche un pochino sotto come sono partita, te l'ho detto 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi, le vostre domande, le vostre esperienze. Tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Deborah, non è solo la borsa che va su e giù, anche il nostro peso. Devo dire che dopo le vacanze è facile che l'ago della bilancia spari un pochino più verso l'alto. Lo so. Puntuali come ogni anno arrivano naturalmente i risultati delle ricerche che dicono che gli italiani dopo le ferie si trovano a dover smaltire in media 2-3 kg di troppo. A voi com'è andata? 800 24 00 24, siete tornati in forma, più in forma di prima, siete invece un pochino più morbidi, fate fatica, come a dire, tirare sulla cerniera della gonna dei pantaloni? Allora aspettiamo a salire sulla bilancia, perché c'è anche un giorno preciso in cui farlo, ne parleremo, ma intanto salutiamo il dottor Filippo Ongaro, che è in linea con noi, primo medico anti-aging certificato in Italia, pioniere nella diffusione dei metodi di medicina funzionale per rallentare l'invecchiamento, autore di diversi libri, ricordo l'ultimo Fino a 100 anni, Ponte alle Grazie editore, ma soprattutto grande amico di Cuore Denari. Buongiorno dottor Ongaro, bentornato. Grazie Nicoletta, Deborah, buongiorno. Allora dottor Ongaro, voi dite sempre che perdere chili troppo velocemente faccia male alla salute. 2-3 chili nelle vacanze, a me insomma 2-3 chili mi sembrano insomma abbastanza, ecco, altrettanto velocemente. Che cosa succede? Ma cosa succede, Nicoletta? Forse ci lasciamo un pochino andare, forse anche da un certo punto di vista ne abbiamo un po' di bisogno, no? Cioè riflettiamo sul fatto che alla fine le vacanze sono anche un momento di rilassamento e probabilmente, come accade in molti, c'è una disattenzione leggermente più alta nei confronti di quello che mangiamo, c'è l'aperitivo in più, la cena in più con gli amici, la vacanza dove magari viaggiando perdi un po' il controllo, no, della tua alimentazione quotidiana, e quindi ti ritrovi abbastanza facilmente con qualche chilo in più. A sottolineare, però, sono chili allegri, dottor Ongaro. Esatto, ma a sottolineare come purtroppo da un certo punto di vista il nostro organismo abbia una spiccata predisposizione a prendere i chili molto di più di quello che ha invece di perderli, no? Quindi questo è un po' il problema, quindi basta molto poco e anche non per tantissimo tempo per ritrovarti con questi famosi 2-3 chili in più. Allora 800 24 00 24, se volete dei consigli, se volete raccontarci la vostra esperienza, ma mandateci anche messaggi via WhatsApp al 349 238 6666. Un'ascoltatrice, Cristina, ci scrive che in vacanza andando sempre in bici al mare ha ridotto il giro vita di ben 3 centimetri. Il problema sarà conservare il risultato. Eh sì, perché oggi vogliamo dare consigli anche a coloro che si ritornano assolutamente in forma e vogliono mantenere i risultati raggiunti. Ci raggiungerà a proposito anche il dottor Franco Confalonieri a tra poco. Ma intanto, dottor Ongaro, lei di che cosa ha bisogno di sapere per darci una mano? Ad esempio, dove accumuliamo i chili di troppo? Sulla pancia, sui fianchi, sui glutei? Beh, sicuramente questo è uno dei criteri con cui possiamo definire un po' la tipologia di sovrappeso, il famoso discorso della mela, della pera, del peperone, di tutte le varie della melanzana, di nomi che sono stati dati a questo fenomeno. È sicuramente importante, è curioso però anche sottolineare, mi pare giusto farlo, che come ha detto l'ascoltatrice che vi ha appena scritto, può essere anche l'opposto alla vacanza, può essere anche il momento in cui fai più attività fisica e stai più all'aria aperta, sei meno attratto da alimenti calorici e quindi invece il peso cala. Ad esempio, un ascoltatore ci scrive che è stato in Indonesia. Riso, verdure, spezie, colazione, pranzo e cena, devo prendere 2-3 kg, non perderne. Daremo dei consigli anche ad Alberto, diamoglielo subito ad esempio, perché ci preoccupiamo sempre delle persone che sono sovrappeso e mai quelle di quelle che sono sottopeso. Dottor Ongaro. Sì, sono d'accordo, in realtà è un problema abbastanza trascurato e però comune. Lì io ci tengo molto a sottolineare che nel tentativo di aumentare di peso bisogna cercare di aumentare di muscoli e non necessariamente di tessuto adiposo, e chiaramente non bisogna cascare nella trappola del mangiare schifezze per aumentare di peso. Cioè, attenzione che essere sottopeso non va bene, però se io per aumentare di peso danneggio il mio metabolismo anche non va bene. Quindi ci vuole pazienza, bisogna puntare su un'alimentazione calorica ma sana, quindi di calorie sane, e ad un'attività fisica che sia indirizzata all'aumento della massa muscolare, quindi un po' più di ginnastica, gli elastici, i pesi. Queste sono le strategie che possono nel tempo aiutare ad accumulare un po' di chili. Dottor Ongaro, e poi passiamo ai problemi dei nostri ascoltatori che invece vogliono perdere chilo. Ma quando lei mi dice un'alimentazione che sia più calorica ma in modo intelligente, mi fa qualche esempio? Beh sì, esempio di cibi calorici ma naturali, quindi non so, la frutta a guscio, i cereali integrali. La natura ci fornisce degli alimenti che non sono necessariamente privi di calorie, anzi ci sono degli alimenti, basta pensare ai grassi, voglio dire, che hanno calorie, però non hanno questa miscela di ingredienti che è tarata anche a farti un pochino perdere il controllo della tua alimentazione. Cioè, io per aumentare di peso non posso pensare di riempirmi, non so, di dolci, perché chiaramente il dolce è uno sfizio che va bene ogni tanto, ma se nel tentativo di aumentare di peso faccio così, finisco con danneggiare la regolazione della glicemia anche in una persona che non è sovrappeso. Quindi questo è un po' l'attenzione. Insomma, ci vuole testa, o meglio, come lei spiega nei suoi libri, la relazione con il cibo passa attraverso la consapevolezza, no? Tutto parla, mangiamo con la bocca, però è dalla testa che parte il segnale. E quindi, dottor Ongaro, anche lei nei suoi video, che io invito i nostri ascoltatori naturalmente a consultare sul sito, lei parla di alcuni consigli, dà alcuni consigli per liberarci da alcuni automatismi, da qualche comportamento che in qualche modo può danneggiare, può rendere non salutare il nostro stile alimentare. Sì, perché in realtà, come ho già detto altre volte anche qui in trasmissione da voi, cioè il problema fondamentale è che la maggior parte delle persone oggi sa che cos'è il mangiare corretto, lo sa, lo ha sentito, lo ha letto, quindi la difficoltà che la maggior parte delle persone ha in realtà è la messa in pratica di queste nozioni, e molto di questo ha a che fare con dei meccanismi automatici che si instaurano nelle nostre abitudini e che facciamo fatica a interrompere. La consapevolezza significa proprio questo, acquisire un grado di controllo maggiore. Per esempio, nell'ambito dell'alimentazione io consiglio anche ai miei pazienti di crearsi una sorta di rituale da adottare prima di ingerire qualsiasi tipo di cibo. Potrebbe essere banalmente fare 3 respiri profondi prima di iniziare a mangiare, e questo già interrompe questa sorta di automatismo. Di automatismo e velocità velocità che fa sì che divoriamo il cibo e tra l'altro divorando il cibo contribuiamo a un peggioramento del regolamento dell'appetito, quindi corriamo molto più rischio di mangiare eccessivamente. E se uno, per esempio, adesso è chiaro che queste cose diventano facili quando le rendi automatiche nel tempo, no? Quando diventano un'abitudine, però se assieme ai tre respiri uno si ripete una sorta di mantra in cui dice mangio solo ciò che mi fa bene, per dire, sarà un pochino più, sembra sciocco, ma sarà un po' più difficile invece gettarsi immediatamente su un cibo malsano. Quindi io credo che alle volte diamo poca importanza a una sorta di allenamento comportamentale che invece è quello che fa veramente la differenza e ti protegge fondamentalmente da te stesso, cioè dalle scelte errate che corri il rischio di fare pur sapendo che sono sbagliate. 800 24 00 24, abbiamo Giovanni da Napoli. Buongiorno Giovanni, benvenuto. Io a Napoli, una settimana a Napoli, io ingrasserei di 2 chiletti pieni, tra sfogliatelle, pasta, pizza, bene, Giovanni. Sfogliatella, pastiera, babà. Di tutto e di più. Mozzarella. Poi guardi, mamma mia. In vacanza giù nel Cilento. E Battipaglia, che è la patria insomma, della mozzarella, quindi non le dico. Lo so. È dura, Giovanni. Vabbè. Poi, però dai chili che ha messo su non è andata proprio male, Giovanni, con tutto questo ben... Diciamo che tutto sommato ci siamo un po' contenuti, perché mia moglie è una che è una sportiva, quindi un po' mi tirava. Ecco, diciamo a giorni alterni io la seguivo, ma diciamo 2 giorni, un giorno sì, 3 giorni no. Vedi, gli viene già da ridere. Adesso però Giovanni, lui ci ha chiamato, una dritta, ecco, dal dottor Ongaro magari, certo, aiuta. Certo, ecco, io sono uno che mangia tanta verdura, tanta frutta, ma mi lascio andare, ecco, alle grigliate di carne, ecco, quello è. Noi mangiamo tanta carne, quindi bisognerebbe, ecco, forse limitare e mangiare forse più verdura, più frutta e più dottor Ongaro, ci sono, vede, poi uno dice mangio tanta frutta, mangio tanta verdura, però alla fine mi arrotondo un po'. Ci sono degli errori, oppure meglio, mettiamoli in positivo, ci sono dei trucchetti che possono mandare, come lei ci ha detto tante volte, no, attraverso il cibo, dei segnali al nostro corpo in modo da così aiutarlo a lavorare per noi? Nello specifico riferimento a questo ascoltatore, chiaramente 2 cose abbastanza semplici da fare subito sono intanto distinguere tra frutta e verdura. La frutta fa benissimo, però è molto più ricca di zuccheri, quindi non si può pensare di mangiarne la stessa quantità rispetto alla verdura, che invece ha sostanzialmente limiti quasi sconfinati. E l'altra cosa, semplice passaggio, la grigliata non è il massimo della tipologia di cottura, perché chiaramente una cottura aggressiva diventa assolutamente non il massimo quando a grigliare è la carne. Tra le due, per esempio, scegliere il pesce fa già una grande differenza. Cioè, quello che noi dobbiamo capire è che tutto sommato, se siamo sufficientemente capaci di sostituire piuttosto che di eliminare tutto e di comprendere un pochino meglio che gli alimenti non sono tutti uguali, diventa anche non così privativa un'alimentazione sana, perché non significa necessariamente una rinuncia a tutto. Anzi, ma il saper capire che effetto ha un tipo di alimento cotto in un certo modo. Per esempio la carne, in particolare se è carne rossa, sappiamo bene che grigliata dà il peggio di sé, perché sviluppa delle sostanze tossiche che non sono assolutamente salutari. La stessa carne cruda assunta, la stessa carne rossa assunta in un altro modo, per esempio la tartare, già elimina quell'effetto lì. Quindi l'importante è conoscere un po' meglio l'effetto che ogni alimento può avere nell'organismo per poter fare delle scelte, ancora una volta ritorno al termine, consapevoli. No? Consapevoli, scelte consapevoli, che ha fatto sicuramente, che conosce bene, il nostro amico che si è presentato ieri così. Lanciatemi, anche perché ho approfittato delle vacanze per perdere 4-5 kg, quindi potete lanciarmi con più facilità. Grande! E infatti noi lo lanciamo, è arrivato qua, non in carne e ossa, ma è tornato a trovarci il adesso dottor Confalonieri. Adesso, ma lei mi sparisce, dottor Confalonieri. Buongiorno a tutti. Ci sono. Come facciamo? Poi prima di sparire ce ne vuole, carne ne rimane tanta. Però gradualmente, naturalmente, stiamo perdendo un po' di peso, stiamo tornando in forma. Soprattutto stiamo perdendo tessuto grasso, che poi è la cosa fondamentale. Dobbiamo proprio, come dice spesso anche il dottor Ongaro, abituarci a ragionare in termini di peso, di tessuto grasso e non di peso, perché poi perdere peso vuol dire perdere tessuto muscolare ed è più negativo che positivo. Tante allora, volte. Adesso ci fermiamo. Due esperti per cercare di capire come perdere quei chiletti che abbiamo preso in allegria, quasi senza rendercene conto. A volte si eliminano facilmente, no? Tornando alla routine quotidiana. Ma consigli anche per mantenere la forma che abbiamo con piacere ritrovato in vacanza. A tra poco. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta Cuore e Denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Sì, ci muoviamo, ma non muovetevi di lì, ci siete connessi. Eccola là, brava, la parola d'ordine del giorno è connessi o disconnessi. Attenzione, perché in Francia dal 1 gennaio ne parlerà forse, no un altro argomento, scusate, mi sono sbagliata, dal prossimo 1 gennaio per legge avranno tutti il diritto di disconnettersi dalla mail i lavoratori che ad un certo punto del pomeriggio potranno dire: sapete che c'è, io non rispondo più alle chiamate o alle mail di lavoro, perché anche una legge mi permette di farlo. Lo fa anche una legge italiana, quella sul lavoro agile, e magari questo sarà sicuramente tema anche di approfondimento per noi in una prossima puntata di Cuore Denari. Intanto Rosario su Facebook dice: è normale amministrazione per me, ho due telefoni cellulari di cui uno è il numero sconosciuto al 99% delle persone. Un altro commento è quello di Alessandro che dice: abbiamo tutti il diritto di staccare, e che cavolo. Allora, dottor Confalonieri, noi abbiamo anche il diritto di muoverci, di mantenerci in forma, ma senza proprio fare troppa fatica, o perlomeno sfruttare le occasioni, no, che si presentano nel corso della giornata, facendo quell'attività fisica che aiuta, come voi avete sottolineato, a potenziare la massa muscolare e a ridurre invece la ciccia. Esatto. Ma allora, innanzitutto io vorrei partire da 3 consigli rispetto all'organizzazione dell'attività: uno molto banale, se vogliamo, ma sempre valido, e 2 un pochino più originali. Il primo: è chiaro che le 2 attività più indicate per perdere peso classiche rimangono il cammino e il nuoto, quindi inserire il cammino o il nuoto all'inizio della giornata piuttosto che nell'intervallo di pranzo ad un'intensità relativamente elevata va comunque bene. Però lancio anche 2 consigli un pochino più originali. Per esempio, scegliamo un corso, scegliamo un'attività in palestra piuttosto che in piscina, piuttosto che in sala da ballo, intervallata. Io, per esempio, ho fatto uno studio quest'estate e ho scoperto che l'hip hop è una forma musicale straordinaria per perdere peso. Fantastico. Non sto scherzando, cioè voi mettete nelle vostre cuffiette, per esempio, Vorrei ma non posto, che è la canzone dell'estate, e durante la fase rap di questa canzone vi muovete al ritmo di questa canzone, durante la fase melodica vi riposate. Bene, abbiamo un protocollo di lavoro efficacissimo per perdere peso, perché durante la fase di riposo noi ricostruiamo le scorte energetiche consumando selettivamente grassi. Quindi il pop a go-go all'interno di un corso, a casa, preparando da mangiare, facendo le nostre attività, ci divertiamo e dimagriamo. Un ultimo consiglio relativamente originale: se durante la settimana non ce la facciamo, impostiamo weekend attivi. È sufficiente, se noi per 2 giorni a settimana, 1 giorno e mezzo, riusciamo a muoverci, già staremo molto molto meglio, senza impazzire durante la giornata per farci stare dentro tutto, che poi lo facciamo a settembre, ad ottobre, e poi molliamo. Allora adesso il dottor Confalonieri, dopo la trasmissione, scriverà un programma settimanale per gli amici di Cuore Denari. Yes. Anzi, un programma, iniziamo col weekend, un programmino per il weekend, per un weekend attivo. Va ma bene. Nel frattempo, vede che noi ci siamo già, eccolo il ritornello, già mi sento sfilata. Un esame all'università e fa un tuffo nel mare. Adesso basta. Ecco, basta. Allora, anche tanto per essere concreti, no? Perché spesso si riesce a stare meglio anche in modo divertente. Questa che abbiamo sentito è la fase melodica, quella in cui dobbiamo riposare e goderci la musica. Poi la fase reppata, invece ci muoviamo, possiamo muoverci semplicemente camminando, saltellando, ballando, e ci attiviamo. E lo facciamo un po' di volte e vedrete che otteniamo subito l'effetto. Comunque, se non riuscite a muovervi, i consigli del dottor Confalonieri per un weekend attivo li troverete, sì, a partire. Quanto ci mette il dottor Confalonieri a pensarci? Diciamo da domani. Collegatevi con noi. Abbiamo delle diverse domande per lei e per il dottor Ongaro. Dottor Confalonieri, e chiedo anche aiuto al dottor Ongaro. Allora, è divertente, in molti articoli di giornale abbiamo letto anche sui siti il problema del lato B, no? Si torna alla sedentarietà e il lato B sviene, si spiaccica, no? Si rilassa. Noi ci impegniamo, più noi siamo impegnati alla scrivania, più lui si rilassa. La mia amica dice si slandra tanto che un articolo ad esempio su Cosmopolitan suggerisce di sedersi soltanto sul bordo della sedia, dottor Confalonieri. Sì, l'ho provato ieri, ma già è scomodissimo, per ma cosa c'hai tu da ridurre? Va giù dottor Confalonieri. No, qui darei due consigli un pochino più difficili da seguire ed uno molto più semplice. Sì. I due più difficili sono laddove possiamo, o utilizziamo le classiche sedie ergonomiche o molto più diffuse adesso in tantissimi uffici le fitball, cioè quelle sfere, quelle palle nelle quali noi siamo obbligati a cambiare seduti, posizione, attivando, cambiando posizione continuamente, ma soprattutto attivando tutta la muscolatura del core, che è fondamentale per prevenire a livello di colonna e che poi mantiene tonici attivi, guarda caso, glutei e addominali, che sono i muscoli fondamentali per questa, proprio per la stabilità e per la postura. Se non lo possiamo fare perché lavoriamo in un ufficio tradizionale, un consiglio anche qui molto semplice, molto concreto è: o cambiamo tipologia di sedia, magari in ufficio ci sono sedie diverse, o molto più semplicemente cambiamo posizione sulla sedia. Cosa facciamo? 20 minuti seduti in fondo alla sedia, una passeggiata, caffè, chiacchierata o semplicemente tre passi, 20 minuti seduti a metà, di nuovo una passeggiata, 20 minuti seduti in punta, di nuovo una passeggiata, ci muoviamo e modifichiamo il nostro equilibrio posturale, ci serve. Questo consiglio lo darei anche a tutte le mamme da dare ai loro bambini. Bene, che adesso se riprendono. Se riuscite a abituare i vostri bambini a scuola all'idea di stare seduti sul banco, cambiando il più spesso possibile posizione. Ecco, sperando che poi la maestra non dica stai fermo che sei sempre dicendo, che ti muovi. Allora, quindi però provate. La maestra, questo può servire davvero. Allora, dottor Ongaro, intanto più di un ascoltatore mi scrive, dica al dottor Ongaro che ha letto il suo libro, è magnifico, Sotto l'ombrellone, un altro l'ha letto in montagna, grazie, voi continuate a leggerlo, ma intanto vorrei chiedere al dottor Ongaro, ci scrive un ascoltatore via WhatsApp, quando è consigliabile allora mangiare la frutta e se a fino a pasto può essere un errore visto l'alto indice glicemico. Giuseppe da Milano è preparato con l'indice. Insomma, Nicoletta, gli errori possono essere ben peggio del mangiare la frutta, no? Tanto per cominciare, certamente se io devo proprio scegliere in un'ottica anche di regolazione del peso, preferisco giocarmi la frutta a cavallo dell'attività fisica, dove gli zuccheri sicuramente vengono utilizzati a scopo energetico, quindi se vogliamo proprio essere precisi, però non è possibile ritenere la frutta come l'errore che ha rovinato il pasto, ce ne sono ben di peggio, ecco. Però se c'è possibilità di scegliere, mi indirizzerei di più sulla frutta come carburante utile per spingere di più in allenamento. Ecco, quindi prima di andare in palestra, vedi, ti porti la pesca, giusto? Sì. Vedi, l'ho detto perché così la è aperta. Dottor Ongaro, per disintossicarsi, cosa ne pensa, ci scrive un ascoltatore, dell'idea, della proposta di assumere kefir e semi di lino a colazione? Ma sì, allora io diciamo ricevo tantissime domande su web, sui vari social di questo tipo e rispondo sempre nello stesso modo. La disintossicazione è un processo biochimico complesso gestito dal fegato e perché funzioni bene occorre un'alimentazione sana a 360 gradi sempre. Non c'è un alimento. Quindi non è che uno si beve il kefir e dice esatto. No, ecco fatto, sono già tutto bello disintossicato, poi sì. No, possono essere delle aggiunte interessanti, Nicoletta, però il concetto è certamente se continuo a fare 10 altri errori non sarà il kefir ad annullarne gli effetti, quindi io credo che la disintossicazione vada un po' inquadrata meglio, non è questione di digiuni, non è questione di singolo alimento, è questione di dare al fegato la capacità di metabolizzare le tossine in maniera corretta, e il fegato per fare questo ha bisogno di tanti nutrienti, da un'alimentazione corretta sempre. Ecco. Allora, un ascoltatore, lo ringrazio, ci propone un tema molto interessante che svilupperemo in una prossima trasmissione. Sì. E ci chiede, sposta un po', l'abbiamo anticipato, che mangiare è anche un problema di testa. E lui ci scrive, ma come fare a vincere la resistenza psicologica? Sembra quasi che a controllare il cibo ci si privi di qualcosa. A livello intellettuale è chiaro, ma non entra nella pancia ed è una lotta continua, si fa fatica. Allora io ho una battuta proprio di 20 secondi per mettere la voglia anche ai nostri ascoltatori magari di scriverci. Chiederemo al dottor Ongaro e al dottor Confalonieri di rispondere sul nostro profilo Facebook. Dottor Ongaro. Ma allora si fa fatica, certo, è un allenamento, cioè del resto moltissima della nostra vita è una forma, no, di educazione e di controllo rispetto a determinati istinti, e l'alimentazione lo è senza ombra di dubbio, più sei attorniato poi da cibi che attraggono la tua attenzione più difficile diventa, quindi mi sembra che sia totalmente condivisibile dal punto di vista di questo ascoltatore, e la risposta è: bisogna creare un metodo ed allenarsi costantemente affinché questo metodo abbia un'efficacia. Ci vuole pazienza e ci vuole un po' di costanza. E voi ci aiuterete a farlo. Naturalmente, se avete bisogno di un aiuto, di un sostegno, contiamo sull'aiuto del dottor Confalonieri e del dottor Ongaro, che vogliamo salutare. Dottor Confalonieri, la saluto con una parola: gradualità, e intanto complimenti. Aspettiamo lo schema per il weekend. Buona giornata. Grazie al dottor Ongaro, al dottor Confalonieri. Noi torniamo domani e parliamo. Come sei, attenzione, seduta? Sto cambiando posizione. No, adesso sono orribile. Guarda, se mi vedesse un ortopedico mi darebbe due ceffoni. Intanto noi domani parliamo di scuola e di avvio di anno scolastico. Si torna, e anche di come si siedono i ragazzini sui banchi di scuola, tutti storti. A domani, ciao.